DJ Mark Self 2016. E andiamo, yeah. Così noi lo facciamo, senti qua. Così noi lo facciamo. Noi siamo più furbi, ti masturbi tutto il giorno con l'uccello sulla mano. È giunta la tua ora, mentre se ne vuoi ancora te ne diamo. In casa c'è Rosora con Milano. Così noi lo facciamo. Noi siamo più furbi, ti masturbi tutto il giorno con l'uccello sulla mano. È giunta la tua ora, mentre se ne vuoi ancora te ne diamo. In casa c'è Rosora con Milano. Sulla strumentale ci ho chiamato DJ Mark. Siamo luce solare quando tutto attorno è dark. Giostra che si accende in questo Luna Park. Chihuahua che non morde, continua a fare bark. Registro un disco fatto in limited edition che mi garantisce una sicura pole position. Sei da serie B, sui tuoi album io ci piscio. Fotografo la faccia che poi stampo sulle t-shirt. Babbo, mamma, vattene via subito. Cristo del dinero, io il cash lo depubblico. Sembri Mauri Cardi con la curva nera azzurra, io ti supplico. Non mi fare mai incazzare il pubblico, la tipa me l'ha data. E il tuo rapporto termina, è Pegaso da femmina, una cavallarata. Avanzo con l'armata, la situazione è chiara e molto ben delineata. Vatti adesso in ritirata. Così noi lo facciamo. Noi siamo più furbi, ti masturbi tutto il giorno con l'uccello sulla mano. È giunta la tua ora, mentre se ne vuoi ancora te ne diamo. In casa c'è Rosora con Milano. Così noi lo facciamo. Noi siamo più furbi, ti masturbi tutto il giorno con l'uccello sulla mano. È giunta la tua ora, mentre se ne vuoi ancora te ne diamo. In casa c'è Rosora con Milano. Dammi una regina che non porti la corona, che abiti all'interno della provincia di Ancona. Deve essere buona, col fisico bestiale che mi mandi quasi in coma. Culo schiena e perizoma e preparati. Questo non è solo che l'inizio, e per le tue vertigini davanti a un precipizio. E se ogni mia vittoria coincidesse con la morte di un pontifex romano, porto sangue in Vaticano. Caldo come in clima in Arizona, sono il toro che fa il panico scappato dall'arena di Pamplona. Il tuo cervello è lento, è come il mio computer quando monta un software vecchio, richiede aggiornamento. Sono decisivo ancora più di Bobo Vieri, che segna al 90° una rete bianconeri. Cammini per sentieri così tanto scuri che ci metti te mai strano dei gemelli assieme a Mary. Mamma mia che c'è, se il tuo ragazzo adesso sbocco, chiamagli un chirurgo che sia bravo nel ritocco. Tu invece sei bellissima con la frangetta e il fiocco. Piacere sono self, per le ragazze Rocco. Così noi lo facciamo. Noi siamo più furbi, ti masturbi tutto il giorno con l'uccello sulla mano. È giunta la tua ora, mentre se ne vuoi ancora te ne diamo. In casa c'è Rosora con Milano. Così noi lo facciamo. Noi siamo più furbi, ti masturbi tutto il giorno con l'uccello sulla mano. È giunta la tua ora, mentre se ne vuoi ancora te ne diamo. In casa c'è Rosora con Milano. 2016 Self DJ Mark ai controlli. Così noi lo facciamo. E voi zitti, shh.